America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. What these companies represent is a source of optimism and enormous potential for the future of America. They are bringing jobs back to America. Barack Obama che parla di occupazione. Il presidente ha organizzato un forum in Sourcing American Jobs per sensibilizzare le aziende americane sulla necessità di investire e di creare posti di lavoro in America. La cosa che mi interessa di questo discorso non è tanto il piano sul lavoro in quanto tale, ma a chi Barack Obama stava rispondendo con questo suo discorso. President Obama wants to fundamentally transform America. He wants to turn America into a European-style social welfare state. L'avete riconosciuto? Mitt Romney. Avete sentito il tono, molto aggressivo. Era il giorno della vittoria in New Hampshire. Ha attaccato Barack Obama non soltanto sul fronte economico, ma addirittura ha detto: tu, Barack Obama, stai cercando di trasformare gli Stati Uniti in una specie di Europa, in uno stato assistenziale. E attorno a questo dibattito che si svilupperà nel corso di quest'anno la campagna elettorale, da una parte la posizione della Casa Bianca, dall'altra la posizione dei repubblicani, e sappiamo che fra i repubblicani sta prevalendo Mitt Romney. Come ha risposto Barack Obama? Beh, ha risposto con uno schieramento di alcune delle più importanti aziende americane. Ne ha raccolte 12 alla Casa Bianca: la Ford, United Technology, l'Intel, la DuPont e una gran quantità di altre aziende. Quelle che vi ho nominato sono rappresentative di vari settori industriali del paese: l'auto, la chimica, l'alta tecnologia. United Technology invece un grosso fornitore militare. Dunque ha mostrato i muscoli il presidente americano, non ha neanche avuto bisogno di rispondere direttamente a Mitt Romney, semplicemente ha dimostrato che una buona parte del mondo degli affari dialoga con lui, lavora con lui proprio per costruire un'America più solida. Sottolineo che nel presentare questa proposta il presidente ha anche ricordato che gli investimenti a reddito fisso in America sono aumentati del 18% circa dalla fine del 2009, che nel settore manifatturiero sono stati creati 334.000 posti di lavoro negli ultimi due anni, mentre la produzione nel comparto è aumentata del 5,7% dal giugno del 2009. Dunque economia, finanza che domineranno la stagione politica, la stagione di queste elezioni americane. In apertura di trasmissione vi avevo parlato della sfida fra Romney e Obama, una sfida addirittura su una filosofia economica, non soltanto sull'andamento dell'economia. E ho per voi adesso una sorpresa, perché ho incontrato in New Hampshire, ho incontrato a Manchester l'ex governatore del Minnesota Tim Pawlenty, che è stato uno dei personaggi più importanti sulla scena politica americana. Tim Pawlenty sembrava una promessa già qualche anno fa del Partito Repubblicano e ha corso a sua volta nel gruppetto iniziale che così sondava un po' il terreno in Iowa. Poi al primo straw poll, che non è andato molto bene per lui, ha deciso subito di ritirarsi. Però di ritirarsi facendo che cosa? È il co-presidente della campagna di Mitt Romney, è uno degli uomini più vicini all'ex governatore del Massachusetts, a quello che sarà sicuramente il nominee della campagna repubblicana, e dunque l'ho sentito. Poi ci siamo messi d'accordo per sentirci per un'intervista con America 24 e discutere di alcune delle prospettive che riguardano il suo candidato favorito Mitt Romney. E dunque la prima cosa che ho voluto chiedere a Pawlenty riguarda il passato di Mitt Romney con Bain. Devo dire, è stato il tema su cui Mitt Romney è stato attaccato di più dai suoi concorrenti e sicuramente il tema su cui sarà attaccato di più da Barack Obama. Sentite cosa mi ha risposto. People get to see the full story, which is when he led Bain Capital, the total number of jobs he added far exceeded any job cuts. And so many of the businesses that Bain Capital purchased were troubled companies. They were trying to save them. Some of them didn't make it, but most of them did. And the overall record of Mitt Romney in job creation is a positive one. And when he was governor of Massachusetts, ecco, Tim Pawlenty mi dice, la gente deve guardare alla storia per intero, e cioè deve rendersi conto che quando lui era il capo di Bain Capital, il numero dei posti di lavoro che ha salvato Mitt Romney supera il numero di quelli che sono stati tagliati. Molte delle società che Bain Capital ha rilevato erano in guai finanziari seri, rischiavano di chiudere. Romney è stato in grado di salvare la maggior parte di queste aziende e anche come come governatore del Massachusetts ha creato posti di lavoro e visto diminuire il tasso di disoccupazione. What Governor Romney is trying to say is there's a degree of government involvement and government spending in Europe that far exceeds what's typical in the United States, and that Barack Obama continues to increase government spending, increase the role and scope of government, and it begins to look more like Europe rather than what we've traditionally, you know, recognized and supported here in America. So I think the point that Governor Romney is trying to make is Europe has taken more of a bigger government intervention, bigger government spending. Ecco, avete sentito, qui Polenti parla dell'Europa. Non potevo non chiedere a Polenti che cosa intendesse davvero Mitt Romney quando attaccava Obama dicendo che lui vuole fare dell'America l'Europa come se fosse un crimine e dicendo che l'Europa è il peggio che si può immaginare dell'assistenzialismo e guai se l'America dovesse diventare così. E la risposta di Polenti, di nuovo, è moderata. Quello che Romney voleva dire, mi dice, è che c'è un grado di coinvolgimento dei governi a livello di spese in Europa che supera di molto lo standard americano. Barack Obama continua ad aumentare la spesa pubblica, a crescere il ruolo del governo e la sua politica comincia a somigliare molto a quella che si vede in molti paesi europei piuttosto che a quello a cui siamo abituati. E dunque mi spiega quel che voleva dire Romney e che lui vuole dare al paese una direzione diversa. Well, we don't want to take anything for granted because there's a lot of unknowns still ahead in this campaign, but having won both Iowa and now New Hampshire and being in a front runner position in the states coming up, it looks very, very positive for Mitt Romney, a lot of momentum, but we can't take anything for granted. He's going to have to go out and earn every one of qui chiedo a Polenti di guardare in avanti alla South Carolina, alla Florida. La risposta è prudente, non possiamo dare nulla per scontato, mi dice, però è chiaro che lui resta il candidato favorito e mi indica qual è secondo lui il punto di forza di questo candidato: la stabilità. Ve l'ho ripetuto più volte anche a voi, secondo me Romney è stato davvero un candidato molto stabile e Polenti mette in evidenza che è l'unico candidato stabile in questa corsa elettorale, è rimasto stabile in tutti i sondaggi durante tutti i dibattiti televisivi, mentre tutti gli altri invece hanno avuto degli alti e dei bassi. Nel confronto con Obama, che è più carismatico, dice: beh sì, certo, Obama è molto carismatico, però la gente vuole risultati concreti, si sta accorgendo che dietro le parole non ci sono stati risultati concreti e dunque forse è giunto il momento di cambiare. Infine chiedo a Polenti qual è il punto debole di Mitt Romney. Well, every candidate has their pluses and minuses, and I think if Mitt Romney were here, he'd say he's not perfect. No candidate is perfect, but he's got the best vision, in my view. Beh, ogni candidato, dice Polenti, ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, e se lo stesso Romney fosse qui con noi a parlare, direbbe di non essere perfetto. Nessun candidato è perfetto, però quello che posso dire è che fra tutti i candidati di una parte e dall'altra, lui è quello che ha il quadro più chiaro sull'economia. Poi, dice, gli elettori giudicheranno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Continua il successo di Jason Mraz con il suo ultimo single, I Won't Give Up. Il cantante della Virginia ha conquistato la vetta della classifica delle canzoni più scaricate, pensate, 229.000 downloads, dunque ve la faccio sentire anche a voi, di Jason Mraz, I Won't Give Up. Well, I won't give up on us, even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn, God knows we're worth it. No, I won't give up.